e risaputo che le parole cambiano il loro significato nel corso del tempo. Prendiamo il caso del termine tavola. Questo termine per noi oggi indica un asse di legno o il mobile sul quale si mangia, mentre inizialmente, secondo alcuni studiosi di lingua italiana, indicava l'ufficio di colui che prestava o amministrava soldi altrui. Quest'osservazione sembra priva d'effetto e forse inopportuna, ma se siamo in grado di considerare il passaggio del significato del termine tavola e calarlo nel nostro quotidiano, a dir poco rimaniamo sconvolti. Il linguaggio che noi usiamo è un linguaggio convenzionale mediante il quale noi comunichiamo con gli altri. Se io definisco libro quel complesso di fogli della stessa misura, stampati o manoscritti, e cuciti insieme da formare un volume, fornito di copertina o rilegato, non significa che quello sia veramente un libro, perché se convenzionalmente tutti lo avessimo chiamato pietra, per noi sarebbe una pietra. Ma poiché nella mia mente il termine libro evoca un complesso di fogli della stessa misura, per me non è possibile usare un altro termine, sia per definirlo che per indicarlo. Così è possibile una comunicazione con il prossimo solo se noi siamo in grado di usare termini convenzionali che per tutti hanno lo stesso significato. Proprio per questo noi siamo condizionati dalle parole e non possiamo usarle in modo improprio, senza rimanere puntiti nella comunicazione. Questo è un dato di fatto, ma vi è un'altra problematica che non possiamo ignorare. Se un termine come tavola viene da tutti applicato ad un asse di legno o al mobile sul quale si mangia, non vi è nulla di male, perché per convenzione siamo tutti d'accordo di dargli quel nome. Ma se il termine è vecchio di migliaia di anni, io non posso e non ho il diritto di dare un significato al termine diverso da quello che aveva nel momento della stesura del termine. Se oggi io definisco tavola un asse di legno, o il mobile sul quale si mangia, e fra 6.000 anni questo termine viene applicato a un fiore, nessuno ha il diritto di dire che oggi il termine tavola voleva indicare un fiore. In definitiva, io non posso dare un significato a parole vecchie di millenni che abbia un contenuto diverso solo perché oggi lo hanno per me. Perciò, nel leggere testi o documenti antichi, noi siamo in obbligo di informarci del significato originario delle parole. Per questa ragione la Bibbia, quale parola di Dio, non può essere letta, compresa e spiegata alla luce della nostra cultura, ma soprattutto non possiamo dare alle parole in essa contenute lo stesso significato che è valido oggi per noi. Se siamo convinti che molte parole hanno subito una trasformazione di concetti, allora leggiamola alla luce del significato originale. Tra le tante parole bibliche che nel corso del tempo hanno mutato significato rispetto a quello attribuito loro al momento della stesura e che perciò hanno danneggiato notevolmente la comprensione della parola di Dio, è il termine angelo. Quando leggiamo questo termine, la nostra mente evoca, in armonia con l'opinione comune, un essere sovrumano alato, creato da Dio e che annuncia la volontà di Dio. Questa opinione non è nata nella mente degli uomini all'improvviso, senza alcun riferimento, anche perché la quasi totalità delle parole hanno un significato che deriva da aspetti oggettivi. In effetti, noi abbiamo dato e diamo dei nomi a cose che hanno dei riferimenti omonimi. Chiamiamo pesce martello quel pesce che ha davanti alla bocca qualcosa a forma di martello, o abbiamo definito pesce spada quel pesce che davanti ha un lungo osso a forma di spada. Così è della parola angelo, che deriva da una parola greca il cui significato è messaggero, cioè colui che parla, o agisce al posto, o in nome di colui che lo manda. Perciò nel nostro modo di esprimerci, in armonia con la cultura ebraica e giudeo-cristiana, quando vogliamo definire qualcuno che annuncia qualcosa di importante, lo possiamo definire un angelo. Il termine quindi si riferisce non alla persona stessa, e per questo a volte diciamo che quella persona è un angelo, cioè si comporta bene, ma alla funzione che la persona svolge, come quando definiamo qualcuno avvocato. Il termine è riferito al compito che svolge, non propriamente all'essere. Tanto è vero che a volte diciamo a qualcuno di non fare l'avvocato, cioè di non prendere le difese di un altro. Proprio perché la parola angelo ha il significato di inviato o messaggero, troviamo questo termine riferito ai sacerdoti in Malachia 2. 7. Poiché le labbra del sacerdote dovrebbero custodire la conoscenza, e dalla sua bocca uno dovrebbe cercare la legge, perché egli è il messaggero, cioè angelo, dell'Eterno degli eserciti. Nel Nuovo Testamento troviamo il termine angelo rivolto a Giovanni, il Battista in Marco 1:1-2. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come sta scritto nei profeti, «Ecco, io mando il mio messaggero, cioè angelo, davanti alla tua faccia. Non vi sono dubbi, dunque». Il sacerdote Giovanni il Battista non era esseri sovrumani con le ali, ma annunciatori da parte di Dio. Come del resto, quando leggiamo nel libro degli Atti che un angelo parlò a Cornelio, Atti 10:3, e che Cornelio stesso definisce uomo, Atti 10:5, ciò che lo faceva angelo, cioè messaggero, era il fatto che aveva le vesti risplendenti, Atti 10:5. Questo era da ciò lo distingueva da un uomo qualsiasi. Fin qui credo che non vi siano dubbi sulla interpretazione del termine angelo. Il problema sorge in merito ad una espressione abbastanza comune nell'Antico Testamento, e cioè angelo dell'Eterno, o come abbiamo in ebraico Malach di Yahweh. Dopo quello che abbiamo preso in esame non è più possibile pensare automaticamente all'angelo dell'Eterno come ad un essere spirituale con le ali, anche se è aperta questa possibilità, perché questa interpretazione andrebbe a scontrarsi fortemente con il fatto che spesso non è possibile distinguere Yahweh con l'angelo. Ma forse il problema reale non consiste tanto nella parola, ma ciò che nella nostra mente il termine angelo evoca. Se siamo condizionati dalla nostra cultura che la parola angelo sia riferita ad un essere angelico, è quasi impossibile pensarla diversamente, ma se siamo in grado di considerare il termine angelo alla luce del significato che ne davano gli scrittori, allora è ovvio che l'espressione di angelo di Yahweh sia una manifestazione di se stesso, che annuncia se stesso, facendosi vedere con caratteristiche umane. Chi scrive chiama Yahweh con il suo ruolo, cioè angelo, in quanto annunciatore a chi si rivela o definisce il soccorso personificato di Yahweh per Israele. Secondo alcuni autori, l'angelo di Yahweh è l'ipostasi dell'Eterno Yahweh, in quanto il testo biblico lo afferma apertamente. Conclusione questa, per alcuni forse delirante, ma il problema, come abbiamo detto, non consiste nella decisione finale, ma perché, dando al termine angelo il significato di un essere angelico, coerente con se stessi, non possono avere altra opinione. Non solo. Sempre coerenti con il loro modo di vedere, si scagliano contro ad ogni altra interpretazione che non sia la loro. Da una parte, comprendo, perché non possiamo pensare in un modo e parlare in un altro. Se per me un libro è un complesso di fogli della stessa misura, non posso pensare con la parola libro ad un fiore, e perciò mi scaglierò contro chi mi vuol far credere che un fiore sia un libro. Queste riflessioni non vogliono far credere che le lucciole siano lanterne, ma hanno lo scopo di voler mettere in evidenza la necessità di adeguare le nostre immagini mentali alla rivelazione della parola di Dio. Il compito di chi legge la parola di Dio non dovrebbe essere tanto quello di aggiungere nuove nozioni, ma di modificare i presupposti sui quali interpreta la parola di Dio. Se quando nella Bibbia leggo il termine angelo, io ho nella mia mente sempre un essere angelico, è evidente che non ho alternative. Ma se io posso scorgervi anche il suo significato originale, e cioè colui che parla, o agisce al posto, o in nome di colui che lo manda, allora l'angelo di YHWY è la manifestazione di se stesso mandato dalla pluripersonalità della divinità di Israele. Proprio perché la parola angelo ha più applicazioni, consideriamo una grande verità purtroppo spesso ignorata, dato che il termine angelo non è stato compreso. Prendiamo in esame un brano del libro di Giobbe. L'uomo è pure ammonito con il dolore sul suo letto e con il tormento incessante nelle sue ossa. Si dà aver nausea del pane, e persino dei cibi più squisiti. La carne si consuma a vista d'occhio, mentre le sue ossa, che prima non si vedevano, spuntano fuori. Così la sua anima si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che danno la morte. Ma se presso a lui vi è un angelo, un interprete, uno solo fra mille, che mostri all'uomo il suo dovere, che abbia pietà di lui, e dice: risparmialo dallo scendere nella fossa, ho trovato il riscatto per lui, allora la sua carne diventerà più fresca che nella sua fanciullezza, ed egli tornerà ai giorni della sua giovinezza. Supplicherà Dio, troverà grazia presso di lui e potrà contemplare il suo volto con giubilo, perché Dio avrà ristabilito l'uomo nella sua giustizia. Rivolgendosi alla gente dirà: ho peccato e violato la giustizia, e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato la mia anima perché non scendesse nella fossa e la mia vita può vedere la luce. Ecco, Dio fa tutto questo due volte, tre volte, con l'uomo, per stampare la sua anima dalla fossa e per illuminarlo con la luce della vita. Giobbe 33:18-30. Il brano, più che essere suggestivo, è di una validità incommensurabile, perché tutti, prima o poi, ci troviamo con il dolore nel nostro letto. E più che questo, tutti in certi momenti tragici e dolorosi abbiamo bisogno di una parola buona ed opportuna. La parola di Dio, sempre pratica e reale, riconosce questi momenti e non presenta inevitabili reazioni divine miracolose, e per questo riconosce che a volte vi è la realtà inevitabile della morte. Però, aggiunge la parola di Dio, ci è da sperare che un angelo intervenga per dire le giuste parole per ottenere la guarigione. È evidente che in questo brano l'angelo non è un essere spirituale con le ali, ma qualcuno che mandato da Dio dia un messaggio appropriato per la sua salvezza. Purtroppo, il nostro modo errato di interpretare il termine angelo ci impedisce di godere e di vedere chi parla da parte di Dio. Il Dio dei cristiani è principalmente un Dio che parla, ma non facendolo di persona, egli manda degli angeli, dei messaggeri. Questi angeli possono essere i vicini, dei bambini, gli amici, i parenti, i fratelli in fede. E a volte anche i nemici. Io sono profondamente convinto che la necessità più grande che abbiamo è quella di ascoltare e di saper ascoltare. Se noi non vediamo e non udiamo intorno a noi gli angeli mandati da Dio, perdiamo numerose benedizioni, ma soprattutto quella di scampare l'anima dalla fossa e vivere illuminato con la luce della vita. Novembre 2004, Enlero.